femmineggia, gittu gittu in cielo cori e chiancia di dolori, ai ai ai ai ai. E la barca la strascinava e lo sangue ne corria e lo mascolo chiancia, ai ai ai ai ai. E lo mascolo pari impazzuto ne dicia, peggia mia non chianciri, peggia mia non chianciri, dimmi te che io farì. Rispunnia la femmineggia con un filo, filo e voci, scappa, scappa, amore mio, che se no tacci di noi. No, no, no, no, no, amore mio, se tu mori, voglio morire insieme a te, se tu mori, amore mio, voglio morire. Con un sarto si gioco issa, cucchio cucchio, core a core, e a così finì l'amore di dopisci sfortunati. Gioia, gioia, gioia, lo vedi, c'è pure lo masco, lo uccidi, lo uccidi, lo uccidi, lo uccidi. Stella storia d'un pisci spada storia.